Non dico grazie a nessuno, per quello che ho, i miei fra vendono ancora il fumo. Sotto quel portico e non sono mai stato un illuso, attratto dal lusso, a tratti confuso, staccati loro dal collo che non lo rintracciano dopo che fuso. E noi non scappiamo da qui, mamma vorrebbe vedermi in TV, ma non a TG, tu non capisci, parlo di storie di G, dentro le Nike ti sci, palazzi di 15 piani, in 15 in 15 metri quadrati, per questa roba tagliati, tagliano roba per gli altri, portano tagli sui bracci, tutti i miei bro ti guardano male, ti rigano il Porsche, sognano piste a Courmayeur, ma tiran piste in curva no. E dimmi cosa cazzo ti guardi, vieni che ti spengo un po'. C'ho tutto quello che ti serve nella mia felpa di burron. Da bambino avevo il Milka sopra il pane a fette, ora Milka il logo sopra le panette. Da bambini giocavamo a guardie e ladri mentre, ora dalle guardie ci scappiamo veramente. E loro di me non sanno niente. Da bambino sulla bici andavo senza mani, da grande nella vita vado senza piani. Più cresco io, più crescono i guai, ma nella nuova Bugatti non mi sveglio mai. Kamikaze rime ti esplode la testa, tipo quando entra la pula e interrompe la festa. I miei fra sognano il fresco, una vita più bella, mica di finire al fresco dentro a una cella. No, zitto e mosca come da bambino, visto niente, sentito niente, a quell'ora non ero in giro. No, meglio se ti vai a fare un giro, meglio se ti vai a fare in culo, tu nemmeno sai come vivo. Ma questi qua parlano di me, parlano di me. Sì, questi qua parlano di me, parlano di me. Però loro non sanno che, non sanno che. No, no, loro no, non lo sanno che. Da bambino avevo il Milka sopra il pane a fette, ora Milka è il logo sopra le panette. Da bambini giocavamo a guardie e ladri mentre, ora dalle guardie ci scappiamo veramente. Da bambino avevo il Milka sopra il pane a fette, ora Milka è il logo sopra le panette. Da bambini giocavamo a guardie e ladri mentre, ora dalle guardie ci scappiamo veramente. Loro di me non sanno niente, non sanno niente. No, loro di me non sanno niente, non sanno niente. Loro di me non sanno niente, non sanno niente. No, no, loro di me non sanno niente.